Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. L'amore è tutto, e tutto ciò che so dell'amore. Non è una mia affermazione, ma il titolo di un libro di Michela Marzano pubblicato da UTET. Affrontare del tema dell'amore, insomma, non è una cosa semplice. Lei è una filosofa che però cerca anche di essere divulgativa nei confronti del pubblico. Perché ha deciso di fare un libro sull'amore? Perché non potevo fare altrimenti, avrei tendenza a rispondere, nel senso che, come è accaduto quasi sempre, scrivendo un libro, alla fine della scrittura di un libro emergeva il tema del libro successivo. E quando stavo finendo di scrivere Volevo essere una farfalla, in cui avevo raccontato la storia della mia anoressia, mi sono resa conto che stavo scivolando pian piano verso il tema dell'amore. E a quel punto intanto ho capito che dovevo mettere un punto a quel libro e probabilmente dovevo poi prendere il tempo di affrontare frontalmente il tema dell'amore. Quindi non potevo fare altrimenti, avevo voglia, mi sembrava un tema al tempo stesso bello e difficile, perché ovviamente dell'amore e sull'amore hanno scritto tutti da sempre, romanzieri, filosofi, psicanalisti, quindi si trattava anche di una sfida e a me le sfide piacciono, quindi c'era la voglia, c'era la sfida e quindi mi ci sono messa e pian piano è venuto fuori. In questo libro, all'inizio dei vari capitoli, ci sono, diciamo, c'è una parte un po' romanzata, insomma, una storia che sembra essere la sua, insomma, episodi veri di vita di coppia, cose positive, cose negative, le litigate, gli accordi, la condivisione delle cose. E poi ci sono delle riflessioni, diciamo, filosofiche e psicologiche sul tema dell'amore. Quanto c'è effettivamente di psicologia che si aggiunge al tema forte che poi è la riflessione filosofica? Dunque, ci sono effettivamente questi tre elementi, nel senso che appunto nel tentativo di far qualcosa di diverso e di dire qualcosa che forse non fosse stato detto, ho cercato di incastrare due registri di scrittura, cioè un registro narrativo alla prima persona e poi un registro riflessivo alla terza persona. Quindi l'idea era quella di partire da me per poi cercare di arrivare all'universalizzazione e quindi un po' iscrivermi in quella corrente che nasce negli Stati Uniti, gender studies, in cui c'è stato proprio l'invito, soprattutto per le donne, ma non solo per le donne, di cercare di trasformare il privato in pubblico. E questo spiega questi due registri che si incastrano. Per quanto riguarda la parte riflessiva, io direi che è una parte filosofica, ma fatta anche grazie all'aiuto, io direi, di 20 anni di psicanalisi, che poi è stata la mia. Quindi, ancora una volta, la mia storia che mi ha permesso di acquisire una serie di strumenti che mi hanno fatto riconcettualizzare delle cose filosofiche. Quindi c'è proprio un incastonarsi di fatti, pensieri, emozioni e idee e concetti. E io spero di essere riuscita un po' a fare questa fusione, perché poi alla fine dietro c'era la voglia di cercare di rispondere a delle domande che secondo me ci continuiamo a porre tutti, nonostante i tanti libri sull'amore, cioè perché lui o perché lei, quando comincia l'amore, come riconoscerlo, l'amore dura per sempre? E quindi queste domande secondo me hanno poi anche rappresentato la struttura logica di questo libro, cercando di uscire da una serie di luoghi comuni, perché non penso di essere la sola ad essere cresciuta con il mito del principe azzurro per poi rendersi conto che il principe azzurro non esiste, però questo è uno dei tanti luoghi comuni che secondo me inquinano proprio le nostre relazioni affettive, perché con l'idea che un giorno incontreremo colui o colei che sarà capace di colmarci completamente, di renderci felici, noi talvolta passiamo accanto a quello che invece è l'amore, che è appunto la condivisione dell'oggi nell'accettazione di ciò che si è e quindi poi la scoperta della libertà di essere se stessi. Quanto nell'incontro d'amore la maggior parte delle persone finisce per rinunciare a una parte di sé? Intendo dire che è necessario essere molto indipendenti, molto autonomi per condividere e non essere schiacciati da un rapporto. È giustissima la sua domanda, perché effettivamente la grande difficoltà è che, prima dicevo, grazie all'amore si diventa ancora più liberi, cioè liberi di essere se stessi. Il problema è che molto spesso nelle relazioni che si vivono è esattamente il contrario, cioè invece di essere se stessi liberi di esserli, cioè uscire dalla gabbia del giudizio altrui, ci infiliamo all'interno di una gabbia perché dipendiamo totalmente dallo sguardo altrui. E come mai c'è questo tipo di meccanismo? Perché tante volte si immagina che si debba meritare l'amore. Questa è un'altra cosa che io cerco un pochino di decostruire, perché in realtà l'amore non lo si merita, o c'è o non c'è, e tante volte più facciamo di tutto per meritarlo, più arriva il momento in cui ci rendiamo conto che abbiamo perso non solo l'altro, ma anche noi stessi. Ora, nel momento in cui si rinuncia a un pezzo di sé sperando che in questo modo l'altro ci stia accanto, in realtà è l'inizio della fine, perché arriverà il momento in cui ci renderemo conto che quella parte a cui abbiamo rinunciato è forse la più importante, e che soprattutto non siamo disposti a perdonare all'altro il fatto di aver rinunciato a un pezzo di noi, oltre al fatto che molto probabilmente nel momento in cui c'è qualcosa che non va, avremo tendenza a rinfacciargli tutto quello che noi abbiamo rinunciato per lui o per lei, e naturalmente questo disfa completamente il rapporto. Quindi c'è bisogno di autonomia, nel senso che per poter accedere all'amore, secondo me, è necessario sapere che l'altro non sarà mai il nostro tutto, l'altro non potrà mai darci tutto, esattamente come noi non potremo mai essere il tutto e dare il tutto all'altro. Il che vuol dire sapere che nell'amore non si tratta di colmare un vuoto, ma si tratta probabilmente di prendersi per mano e cercare di attraversarlo. Perché però molte coppie oggi sono formate proprio da questo riempimento reciproco di un vuoto? Cos'è, paura della solitudine, incapacità di affrontare la vita? Dunque, io credo che di paura ce ne sia tanta. C'è paura e c'è anche l'illusione di credere che si possa fare a meno di questo vuoto. Allora, cerco di spiegarmi. Secondo me noi viviamo in una società in cui la cosa che fa più paura in assoluto è questa possibilità di renderci conto che qualcosa ci manca. Allora, c'è una lettera bellissima che Camille Claudel scrive a suo fratello, in cui dice: «Il y a toujours quelque chose d'absent qui me persécute», cioè c'è sempre qualcosa di assente che mi perseguita, che è uno dei modi più belli di parlare della condizione umana. Però rendersi conto che c'è sempre qualcosa di assente che ci perseguita è il primo passo per accettarlo. Ora, oggi si tende a fare esattamente il contrario, cioè negare che ci sia qualcosa di assente e fare in modo che non ci sia mai qualcosa di assente, e quindi riempire. Non è un caso che una delle patologie che purtroppo conosco bene è l'anoressia e la bulimia, cioè io mangio, consumo, mi riempio e poi mi svuoto. Ora, tendenzialmente si fa anche questo con le persone, come se potessero colmarci, mentre probabilmente solo nel momento in cui noi sappiamo che questo vuoto sarà sempre lì e che niente e nessuno potrà mai colmarlo, che possiamo poi cominciare a costruire qualcosa con un'altra persona che anche lei ha, poi caratterizzata anche lei dal suo vuoto. E quindi non si cerca la perfezione, perché tanto la perfezione non è di questo mondo, ma ci si abbandona l'uno all'altro accettando il rischio. Prima accennavamo alla teoria dei generi. C'è effettivamente un diverso approccio del femminile e del maschile al concetto di amore, o no? Allora, io credo proprio di no, nel senso che, anche se noi siamo ovviamente frutto di una cultura particolare, noi ci costruiamo all'interno di un ambiente, di una società in cui esistono degli stereotipi, però se noi decostruiamo tutti questi stereotipi, il che non è ovviamente facile, secondo me noi condividiamo, le donne e gli uomini condividono esattamente nello stesso modo questo anelito all'incontro dell'altro. Che poi un uomo si dica: io non sono come una donna, quindi non mi lascerò prendere nelle maglie di una possibilità di credere che con una donna io riesca a conoscere qualcosa di me che non posso conoscere altrimenti, secondo me è frutto effettivamente di una certa educazione, di una certa cultura. Non sto dicendo che c'è identità tra gli uomini e le donne, abbiamo sensibilità diverse, abbiamo aspettative diverse, siamo diversi. Però per quanto riguarda l'amore, essendo ciò che dà senso alla vita sia degli uomini sia delle donne, secondo me c'è un comune sentire. E quando dico un comune sentire è che nonostante tutto, tutto quello che noi facciamo, uomini o donne, è legato all'amore. Riconoscimi per quello che sono, amami per quello che sono. Questa è l'essenza alla fine dell'amore, che sia un amore maschile o che sia un amore femminile. Ma l'amore distorto, il concetto del riempimento del vuoto che dicevamo prima, è più femminile, più maschile o si equiparano? Io direi che si possono equiparare, nel senso che ci sono uomini che hanno bisogno di essere riempiti dalla presenza femminile, ci sono donne che hanno bisogno di essere riempiti dalla presenza maschile o dalla presenza femminile, perché poi qui non stiamo parlando di eterosessualità, ma di eterosessualità e omosessualità. Io credo che sia il racconto che ci si fa intorno a questo vuoto e a come fare, a come non fare, che è specificatamente maschile e specificatamente femminile. Perché è vero che un uomo che raccontasse della necessità che ha di avere una donna che lo riempie farebbe sorridere più di un uomo. Già ci sono delle donne che oggi, cresciute con la cultura del femminismo, che io condivido, mi fanno certe volte delle osservazioni dicendo: ma che cos'è questo tirar fuori di nuovo il concetto di amore, noi che ce ne siamo liberate? E io ho voglia di dire loro: poverine, perché se vi siete liberate di questo concetto, secondo me il femminismo non è servito a nulla. Ci si doveva liberare di una certa concezione dell'amore, ma sicuramente non dell'amore. Beh, quello era anche il femminismo anni 70, adesso diciamo che più con la teoria dei generi e della valorizzazione delle differenze si è fatto un passo avanti anche in questo senso. Si è fatto un passo avanti enorme proprio perché con queste diverse teorie c'è stato soprattutto il riconoscimento della diversità, che non è solo la differenza dei sessi, ma che è l'alterità dell'altro. E siccome amore e alterità vanno di pari passo, io non posso amare se non accetto l'irriduttibile alterità dell'altro che mi permette di accettare la mia alterità. Ovviamente questo nuovo femminismo non fa altro che lavorare nella direzione di una nuova concezione dell'amore. Grazie a Michela Marzano, ora in libreria con L'amore è tutto e tutto ciò che so dell'amore, pubblicato da UTET. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Buona lettura da Alessandra Tedesco.